circo 10, circo 10. Qualcuno su 10? Ora attenzione, canale 10 cambiò. Attenzione, canale 10, cambio. Hola. 1, 2, 3, prova. Ma stai andando bene, dai. Ehi, Giulio, ciao. Buonasera, dai, tanti auguri, non siamo sentiti prima. Ok, li cambiati già. Vabbè, dai, tu vedi in tournée per quello, eh. Tu vedi, in Spagna te ne sei andato, alle Hawaii. Non c'è bisogno di andare in Spagna per andare in tournée. pensavo che avevi mobilitato l'aereo personale e te ne eri andato in giro. Diciamo che non è periodo questo, se non l'avrei anche potuto fare, però con l'aereo personale no, ma con l'aereo di linea sì. Solo che con questo periodo cosa fai, no? Qui va tutta Ughi. Ho dovuto anche fuggire per andare a trovare i miei figli, perché ho fatto venire qui a pranzo, ma sempre con la paura. Sì, beh, per forza. Purtroppo la situazione è quella che ci stiamo passando, per cui cosa ci vuoi fare? Vabbè, intanto è inutile pensarcimi. No, non siamo noi che dobbiamo mettere il rimedio, sono altri. Lo so, Gio. Solo che da più una cosa arriva l'altro. Poi mi sembra che questa qua sia una vocalisce. Più o meno. Più o meno. Ma non è che quel deficiente che aveva previsto la fine del mondo, che sta arrivando veramente, no? Avete considerato tutto quello che sta succedendo? Beh, se tu ascolti gli ufologi, dicono che la madre terra praticamente si sta ribellando e che praticamente scenderà per ribellarsi e farà uno sterminio. Sì, lo sterminio già lo sta facendo questo virus, lo sterminio delle persone perlomeno. L'hai visto anche a Napoli, quella voragine che è successo con lo sprofondamento del terreno in quel parcheggio, profondo 15 metri, vai tu se uno si trova lì e la fa la fine, sì. No, oggi ero fuori, quindi non ho ascoltato molto il telegiornale, ero fuori Sassa. Ho capito. Vabbè. Allora, in un parcheggio pubblico c'è stato uno sprofondamento del terreno a Napoli, profondo 15 metri. Sì, che ti puoi immaginare cosa può essere successo. Se uno si trova lì, fortunatamente non è successo niente alle persone, però macchine già ne ha distrutto. E le macchine non si vengono, però le persone sono più importanti. No, non ho sentito, perché ti dico appunto, ho fatto 300 km oggi, ero fuori. Te l'ho detto io, che tu ti hai preso il velivolo privato e ti hai fatto una bella vacanza. Ma tu è tanto, chi è che se lo può fare oggi la vacanza? Chi ha la possibilità di poterla fare? Però non tutti la possono fare, anche perché c'è molta paura, anche se uno può avere i mezzi per farla, però c'è molta paura a spostarsi. Io ho paura anche quando vado al supermercato, sto sempre un bel attento che non mi si avvicini nessuno, mi sta avendo il terrore, che prima mi era passata, adesso mi sta ritornando, come ho sentito che stanno aumentando le cose, lui... Anche al supermercato sto evitando di andarci, prima andavo, prendevo una fesseria, però magari ci andavo così, però adesso faccio una spesa un po' grossa e poi cerco di non andarci tutta la settimana, perché tanto è inutile, ti prendi i malanni, capito? Il pesce me lo sto prendendo sul gelato e via, e quando ho voglia di pesce me lo faccio, se è buono quello che prendo, il merluzzo... C'erano filetti di merluzzo buoni veramente, me li butto una pizzaiola e sono una scicchiglia. Certo, già lo credo. Sì, beh, certo. Vero. Col merluzzo intero, che quello fatto a trance, e poi fritto, è buonissimo. È buonissimo già. Non so se tu l'hai mai preso, l'hai mai mangiato quel tipo di merluzzo lì, parlo di quello congelato stesso, fatto a trance e fatto fritto, impanato naturalmente, è buonissimo. Sì, è molto buono, io l'ho mangiato fresco così, Giulio, l'ho mangiato fresco, fatto così a trance, preso i merluzzi quelli grandi, c'era qualcuno che voleva entrare forse, vediamo un po', avanti chi vuole entrare. Se andate a coricarvi senza mangiare, che vi fa bene, mi. Boh. Lu, di subito non si prende mai, bu. È un vizio che non si perde. Ah, manco non ti vai manco insulina. Boh, buonasera a tutti, dai, sto facendo cosa, ma sto ascoltando. Ciao Giulio, chi c'è poi, boh? Ciao Gianni, ciao Luca, ciao, c'è Gianni, c'è. E basta, non c'è altro nessuno, io e Gianni, boh. E adesso ci sei anche tu. E guarda, Roria, tu dici paura, io mio. Tu pensi che ancora non sono andato nemmeno a sentire la pensione questo mese, eppure sarei dovuto andare almeno il giorno 2. Oggi ne abbiamo, quanto ne abbiamo? 9 mi sembra, boh. E ancora non ci sono andato, non lo so quando ci andrò, boh, vabbè, comunque. Purtroppo la paura c'è, lo sappiamo, no? Con tutti questi contagi così, e con tutti questi scellerati che ci sono in giro, già, è per quello. Allora, ci siamo cazzicati per un pezzettino. Cosa ti stavo dicendo? Io, se tipo ricordare, sono un anno che non vado a fare a controlli, capito? Sto facendo tutto da solo, però c'ho sempre la glicemia alta la mattina e dovrebbero cambiare magari la cura, però ti dicono tutto al telefono, ma lascia perdere, non mi viene da me così. Uno deve visitarti, deve fare, deve parlarti, una cosa è il rapporto interpersonale, un'altra cosa è internet, anche questi telefoni a me, cazzo, mi rompono le scatole quando mettono quelle voci guida. Mi viene l'Alzheimer, guarda, mi innervosisco 3 ore, sì, un attimo prego, mi sottomi di Vodafone, mamma mia. Oh, io quando arrivano, mia anche oggi, a me mi arrivano tutti i santissimi giorni, sia telefonate da Vodafone che messaggi, mi vogliono... per fare delle promozioni che dicono loro, come dicono loro, io pago 8 euro, 7,90 per l'esattezza al mese, pago, e ho tutto, ho internet, ho tutto, telefonate, 50 giga e tutte queste cose qua. E loro mi propongono, guarda, dimmi tu se uno può essere così imbecille da fare certe proposte. Mi propongono un mese di costo gratis, però poi dopo un mese che te lo mettono a 15 euro. Ma che ci sono? O macchi o pensano che gli altri siano scemi? Sì. Sono un beccale, lo devo cambiare anche io. L'ho cambiato da poco, ma me lo ricambio, non me la fotti nulla perché non fa così. È un casino, Guarda, è una cosa che non si crede. Fanno pagare un sacco di soldi, solo diciamo che la Vodafone prende da tutte le parti e quello è il coso che hanno loro. ha detto che sta lavorando, Luca, l'ha sentito, che sta ascoltando. Non ci degna, Luca, non ci degna. E beh, Luca, tu sì che te ne frighi, fai bene, fai bene. Glielo grido che fai bene. No, ma guarda che anche gli altri non solamente Vodafone, tutti ormai prendono tutti già, no, non c'è problema, figurati, anzi ti dirò di più, qui in questi ultimo periodo qui a casa dove abito io hanno passato anche la linea, la cosa, la fibra, e la fibra costa 29 euro mi sembra, una cosa del genere, al mese, mentre invece io ne pago 40, 42, 44 migliaia, no, oggi l'abbiamo pagato perché oggi scadeva, mi sembra, o ieri scadeva, 44 euro, per cui vedi bene, e io la TIM, non è che non ho un Vodafone, tutto sommato, ma anche Vodafone ormai va bene, anche Iliad mi abbiamo fatto una nuova scheda qua per un tavolo, un altro tablet che abbiamo, siccome è un tablet che si può anche telefonare, che fa da telefono, e abbiamo messo una scheda Iliad, 7 euro e spiccioletti, una cosa così, e va bene, anche su internet va benissimo, non c'è problema già. Ma con quello cosa fa il contratto oppure fa la ricarica mensile? La ricarica mensile, basta. Tu tutti i mesi non fai altro che borsare quei soldi. Io lo stesso con Vodafone cosa faccio? Al 31, cioè all'ultimo del mese, vado e faccio una ricarica da 10 euro. E loro poi pensano a prendersi i 7,80 euro, 7,90 euro mensili. Infatti l'ho fatta anche questo mese, l'ho fatta. E cioè a fine del mese scorso, no? Perché adesso siamo in gennaio, e però io ce l'avevo, perché tutte le volte faccio 10 euro di ricarica, allora si devono prendere quasi 8 euro, si prendono, sì che col passare del tempo mi avanzano dei soldi, mi avanzano, e infatti questo mese avrei anche, non può tutta farla, e invece l'ho fatta per, pensando che magari non ce n'erano, poi ho controllato quanto ho di credito e addirittura ho 13 euro e qualcosa di credito, perciò si può immaginare, avrei anche non potuto farne, perché se l'avevano già presi i soldi, perché c'erano già. Sì, sì, è successo anche a me così, io addirittura ho, mi pare, 15 euro, una cosa del genere, nel prossimo mese infatti non li posso, perché così almeno sono alla pari, perché io ce li avevo già da un altro contratto, sempre il Vodafone, avevo i soldi che mi erano avanzati e sono avanzati dal nuovo contratto che mi hanno fatto, è quello dei ultra sessantini. Ok. Poi ho anche l'altro numero, sempre Vodafone, sono due, quello invece è a consumo, la scheda a consumo, se me li consumo per me. Quella la ce l'ho, ed è il vecchio numero che ho da sempre, però tu mi dirai, ma come mai, cosa te ne fai di due Vodafone? Diciamo che quando avevo cambiato il telefono avevo fatto la nuova scheda e il primo numero mi era rimasto, anche perché il primo numero in realtà io l'avevo dato già da allora, da quando avevo avuto il problema di ospedale eccetera, avevo dato all'ospedale quel numero e lo sto tenendo quel numero proprio perché non si sa mai che mi possono chiamare dall'ospedale, capito? E allora lo tengo, quello è 348 come numero iniziale, mentre l'altro, quello che uso giornalmente e anche su WhatsApp, su internet e tutto, è 388 il numero iniziale, per cui vedi bene, ma quello di 348 non lo uso mai, sì, adesso quasi 8 euro, 7 euro e qualcosa di carica, ma non lo uso mai, quello difficilmente lo uso. Uso sempre quello perché con quello di coso, Vodafone 2 praticamente, no, quello faccio tutte le telefonate che voglio, non consumo, posso stare tutto il giorno anche su internet e non consumo niente, per cui anche perché io mi sono agganciato alla linea di casa, ho interfacciato il telefono, interfacciato con la linea di casa, sicché non consumo niente, nemmeno i giga mi consumo, per il semplice motivo che uso la linea di rete, praticamente TIM, capito? Sì, wifi, e anche io uso quella a casa. Anche io quando sono in casa uso quella, poi quando esco fuori attacco la connessione dati e via. Sì, infatti, sì, ma è così, infatti è così. E vabbè, e questo ce l'ho, non solo nel telefono, ce l'ho anche nel tablet mio, nei due tablet che ha mia moglie, nel tablet e nel computer di mia figlia, nel computer mio, nel computer di mia moglie, insomma tutti siamo agganciati alla rete TIM praticamente, sì che tutti interfacciati con la rete TIM, per cui giga non ne consumiamo. Almeno quando siamo a casa, quando siamo fuori è diverso magari il discorso. Sì, così è. Anche io faccio così. E vabbè, comunque adesso abbiamo fatto diverse di cose che si paga molto meno. Tipo c'è quella anche l'attiva, mi hanno detto Roberto Quarto, ho detto che è molto buona. Quella che ha fatto l'attiva adesso Ikea Blue, non ricordo come sia. Però dice che è molto buona quella linea lì, che si tratta di punti Vodafone e quindi va benissimo, va alla grande e si paga 7,90 euro. E io non pago 7,90 euro, pago così 7,90 euro tutti i mesi. Un paio di giorni prima della scadenza, diciamo, della rata, chiamiamo la rata così, non so se ti mandano un messaggio, entro il 31 oppure il 30, a secondo del mese, no? Scade, eccetera, eccetera. Allora cosa fai? Vai, tramite il computer stesso, noi faccio la ricarica, sempre a 10 euro, e ciccia, e va bene sempre, e continuo così. Prima di questo avevo Poste Mobili, pagavo 30 euro ogni 3 mesi, pagavo, quella era praticamente un contratto fatto così, poi hanno cominciato ad imbattarsi anche loro, allora ho cambiato, senza pensarci due volte, e ho preso Vodafone, e va bene così. No, già funziona bene, ma anche gli altri, ripeto, anche Iliad, che è la gestione peggiore che ci sia, così dicono, poi bisogna vedere a quello che dice la gente, alle volte non corrisponde a verità. Eppure ho visto, c'è la mia moglie, Iliad, appena fatto da poco, 20 giorni fa, e va benissimo, non c'è problema. Va bene così. No, la linea la fibra che hanno fatto qua, a me me l'avevano fatta la TIM, la fibra, no? Però la fibra in che cosa consiste? La fibra arriva, per dire, lo so, tutta la potenza arriva al ripetitore, ed è fibra, va bene. Dal ripetitore a casa invece è sempre filo, per cui non ce l'hai mai la potenza massima della fibra. E così in questo momento è anche Vodafone. Adesso hanno fatto l'impianto qua, nella strada dei punti, hanno fatto Vodafone in collaborazione con Wind. Infatti se tu vuoi usufruire di quell'impianto che hanno fatto in questo mese praticamente, cioè il mese scorso, e allora giustamente ti devi passare a TIM oppure a Wind. Addirittura hanno lasciato 3 giorni che il telefono non funzionava, che mi chiamavo ripetutamente, ma alla fine hanno mandato una squadra, e la squadra che è venuta prima a farmi l'impianto, hanno sbagliato a collegare un filo e l'hanno collegato da un'altra parte. È arrivata la squadra nuova, mi ha collegato per il filo 2 secondi e funzionava tutto. Mi ha detto che comunque se ne andavano, perché quello lì era stato fatto senza criterio, un impianto, non segnalavano la ditta, lasciavano la segnalazione, perché dice se uno sta attento non deve sbagliare, non può sbagliare. Ma sembravano che avessero qualcuno appresso, era in fretta, faceva tutto velocemente, vai là, fai questo, fai l'altro, quello correndo, dai guarda adesso va bene, si dice signor Mello, se non funziona, preme questo pulsante, lo resette e lo fa andare. L'ho premuto 100 volte, mai fatto, ho chiamato la Vodafone, mi ha di prendere lo stecchino, di premere dove c'è quel pinilino dove si preme per resettarlo completamente, l'ho fatto e manco così. Alla fine mi hanno marcato la squadra e mi ha risolto il problema. Li ho invitati a fare il caffè perché mi hanno fatto proprio un grosso favore. Però gli ho detto che io i giorni che io ero stavo pagando il servizio e non stavo usufruendo le cose, allora mi hanno regalato 50 giga gratis per cellulare. Buonasera, ciao Gianfranco. Sì, beh certo, purtroppo in qualche maniera cercano di mantenersi il cliente, capito? Ma io 50 giga ce l'ho lo stesso, ti ho detto, io ho 7,90, 50 giga, telefonate a numero illimitato, internet prende benissimo, non c'è problema, no? Parlo del telefonino, poi vabbè, la linea di casa è tutto un altro discorso. Ma sul telefonino appunto io usufruisco della Vodafone, della linea Vodafone, mentre invece a casa, come ti avevo detto prima, ho TIM perché ancora Vodafone non c'era qua, perché la linea, la fibra Vodafone qui è nella borgata dove sono io, l'hanno appena fatta, se non sto dicendo un mese fa, nemmeno un mese fa, infatti ci sono ancora le strade e con un mezzo di sesto, perché non ho così, mentre invece a Sassari, nell'ufficio a Sassari, quella lì c'è la fibra lo stesso, ma già da molto, già da 2 anni fa, quando avevamo fatto l'ufficio, c'è la fibra subito, messa immediatamente, c'era già la fibra lì. Però sempre a quei livelli, ricordiamoci che la fibra non è completa, e cioè non parte, la fibra ci arriva diretta, no. A me me l'ha spiegato benissimo il giovanotto che è venuto a lavorare qua, quelli della team. La fibra, il massimo della potenza arriva al ripetitore. Se tu hai un ripetitore vicino sei avvantaggiato, se ce l'hai più lontano sei meno avvantaggiato. Perché? Perché tutto il tragitto dal ripetitore a casa tua, a casa dell'utente, è filo, sempre filo. Ok, avanti Giafra, buonasera. Buonasera Giulio, buonasera, se non sbaglio anche Gianni. Sì, ti ha detto metà verità, perché l'altra è che in realtà a molti la fibra arriva, la vera fibra con tanto di modem per fibra ottica, quindi credo che sia tutta la zona dei carbonati sia servita tramite fibra ottica con proprio dentro casa. E poi è chiaro che si uniscono Wind e Team, furbacchioni come sono, sono farebbero parte anche col diavolo. E comunque è quella la situazione. Negli altri dove non arrivano mettono il filo alla bella meglio e si arrangiano così, capito? Oggi funziona, domani no. E non ne frega niente perché sono così, c'è niente da fare. Avanti Gianni, buonasera. Ciao Gianfranco, ciao, buonasera. No, io ce l'ho sin dentro casa, addirittura mi ha detto lì è fortunato perché c'ha già l'impianto del portone che avevamo fatto, non facciamo altro che passare il filo a casa sua. Hanno fatto così, dalla scatola hanno passato la fibra, ed è fibra perché l'ho visto io, si illuminava addirittura, quando hanno fatto le prove si illuminava il filo. Sì, deve fare così, anche quelli che mettiamo noi lo stesso li illuminiamo in modo da vedere se c'è interruzione di tratta o meno, però poi loro sai cosa fanno, siccome sono furbacchioni, fanno la suddivisione di banda anche lì, e quindi ti promettono mare e monti e poi ti ritrovi con i soliti, se ti va bene, 30 mega, che sono più che sufficienti, tra parentesi, però magari ti dicono 50, 100, e invece poi alla fin fine sono quelli, perché li suddividono, non c'è niente da fare. Avanti Giulio, buonasera, un po' rauco ti sento. Sì, in effetti è così, è vero. E vabbè. Sì, ma quello che mi ha spiegato a me quel tecnico che è venuto qua, perché ripeto, io la fibra qui a casa non è che ce l'ho da molto, quello ce l'ho un anno più o meno, anzi anche meno di un anno. Parlo del telefono di casa fisso, perché prima com'era, ogni tanto c'era problema, interruzioni e varie. Adesso da quando abbiamo la fibra, la cosiddetta fibra, che invece sembra che funziona meglio, anche internet, anche perché qua la linea di casa la usa mia figlia per lavorare, eccetera, no? E appunto mi stava cercando il ragazzo, il giovanotto, che poi non era tanto ragazzo, era abbastanza grande di età, ma aveva spiegato che magari arrivano 200 mega al ripetitore, ecco le fibre, d'accordo, però dal ripetitore a casa magari se ne arrivano 50, 60, 70, 80 massimo, non di più, perché è sempre a filo. E ho detto, come mai? Ho detto, perché ancora gli impianti non sono totalmente completi dappertutto, e dunque allora c'è la possibilità di fare questo genere di servizio. Poi, che ne so, quello che mi hanno detto ti sto ripetendo, ad ogni modo va bene lo stesso. Avanti Gianni. Poi intanto che tutti e due ci sono tutte le parti, poi queste grosse aziende te le fanno, non te ne accorgi nemmeno. Se tornare tanto lontano, cazzo, anche la banca ti prende un sacco di soldi ogni mese, cazzo, ti prende un sacco di soldi, non conviene più banca per qualche banca. Ti sfidano un altro giorno, mi è arrivato, è stato un conto, avevano preso 22 euro e qualche cosa. Io da sto scendendo a portare il carro, invece è che non sta bene, si sta lamentando, dai. Ci sentiamo dopo, ragazzi. Sì, infatti sta sempre a piangere. Ok, va bene, già, d'accordo. Sì, beh certo, purtroppo è così, è proprio oggi che abbiamo pagato la bolletta, abbiamo anche fatto il 187, abbiamo protestato perché dall'87, ripeto, dall'87 noi stiamo sempre pagando l'affitto del telefono, e cioè col telefono a tastiera, eccetera. Cosa che invece avremmo dovuto non pagarlo più, nonostante i solleciti che abbiamo fatto per togliere, eccetera, eccetera, perché noi non ce l'abbiamo più quello, ma da anni, non da adesso, da anni, abbiamo il nostro telefono personale, comprato da noi personale. Oggi finalmente, dopo tutti questi anni, si sono resi conto che ci hanno rubato i soldi. Sì, tu mi dirai, non sono molti. E comincio 3-4 euro, però intanto me li stai facendo pagare. E se sono 4 euro al mese, in un anno sono 48 euro, per cui ti sto regalando, o meglio mi stai rubando i soldi tutte le volte, nonostante che io ti ho sollecitato tantissime volte per togliere questa tassa. E invece loro in bolletta me la mandavano sempre, per dirti lo Giofra. Riprendi. Sì, ciao Gianni, allora, più tardi. Sì, era bloccato il tasto. Dicevo Giulio, sì, sono tutti così, guarda, che è una cosa, se noi iniziamo a metterci mano, nonostante anche le multe che le hanno messo, probabilmente questa neanche ne pagano, continuano, guarda, credo che nell'ispari dei furbacchioni, per non dire dei ladri, ci sia la Vodafone con la telefonia mobile. Fanno delle cose allucinanti, ti spariscono i soldi perché dicono che ti hai attivato servizi, è una cosa micidiale. Io da alcuni anni c'ho Iliad ad esempio, e queste cose non sono mai successe perché per contratto non le può fare semplicemente, a parte che forse è dovuto al fatto che non è italiana e quindi è abituata a rispettare le regole bene o male. Mentre questi qua sono veramente una cosa, gente che paga 15 euro al mese, è pazzesco, è pazzesco. Adesso ha aumentato anche l'Iliad, ma solo sui nuovi contratti, quindi quelle vecchie rimangono sempre a 9,99, solo sui nuovi li ha aumentati a 7,99, la vecchia, li ha aumentati a 9,99, praticamente 10 euro, perché sta includendo il 5G praticamente. 5G che è all'avanguardia, perché Iliad sta installando ponti a 5G su tutta Italia, Sardegna compresa. Infatti adesso non si appoggia più a nessuno, va per conto suo, quindi abbandona anche i ripetitori della cosa lì, della Wind che usava. Capito. E ho avuto solo una volta occasione anche di un'informazione a telefonare lì alla Iliad e mi ha risposto una signorina dall'Italia specificando che era in Italia e mi ha dato queste informazioni con una gentilezza, ha fatto anche complimenti, figurati, ha risposto immediatamente. Mentre invece quelli della team sono sgarbati, incompetenti, guarda, è una cosa allucinante. Sì, beh sì, certo, non ha, noi la Iliad l'abbiamo attivata nemmeno un mese fa, insomma un po' prima di Natale, dai. Siccome ho regalato il tablet nuovo per mia moglie, perché ce l'aveva già il tablet, però era un tablet dove non si poteva telefonare perché non era compreso il sistema telefonico. Allora, adesso per Natale gli ne ho regalato un altro, che lì c'è anche la possibilità. E dunque ho messo la scheda Iliad e stiamo pagando 7,90 € al mese. Dicono che non funziona bene, invece ho visto che funziona abbastanza bene, non c'è problema. Fino a questo momento non abbiamo avuto nessun problema. Va bene sia internet, va bene tutto, insomma, in poche parole. Per cui problemi non ce ne sono. E non è vero, come dicono gli altri, che Iliad funziona male, ma non è vero, perché c'era anche mio fratello, un numero Iliad, eppure anche lui ho visto che lo usa tranquillamente dappertutto, soprattutto perché lui si sposta continuamente, e ho visto che l'ho chiesto, ma come funziona? Ah, funziona benissimo come gli altri, dice, no, io non ho verificato nessun problema, per cui pago poco e sono contento così. Perché devi pagare 15 euro, ad esempio, a Vodafone, quando invece puoi andare avanti con la gestione Iliad e ti dà lo stesso servizio. Io, nel senso, faccio così. Avanti, Giacomo. Sì, Giulio, ma infatti hai fatto benissimo, perché questi qua vanno castagnati, perché sono troppo... sono molto furbi, però poi il cliente lo perdono, capito? Perché ne hanno fatto di cotte e di crude, veramente. Gente che pensava di avere 50 euro da ricarica, va a controllare, se ne erano rimasti 6, come è successo anche alle persone che conosco. Una cosa veramente allucinante. Adesso Iliad sta facendo questa offerta che costa un po' più cara, con 5G, e ti dà 70 giga al posto di essere 50, ma personalmente io utilizzo solo 50 giga e ti dirò che non ho mai avuto occasione, anche usandolo intensamente, di superare il giga, quindi era sempre acceso giorno e notte il telefono, quindi non ho proprio consumi al minimo, non mi è mai capitato di vedere un centesimo in più, quindi cosa vuoi dire? Però ho testato dappertutto, a Cagliari, sulla 131 fino a Cagliari, fino a Nuoro, dentro Nuoro, a Cosoli, come si chiama, adesso non mi viene, verso le parti di Castelsardo, quelle zone lì, dappertutto. Quelli si lamentavano, che hai sentito tu, degli inizi, che non c'erano ripetitori, che non erano di Iliad, erano di Wind, magari cercavano in tutti i modi di bloccare la banda, capito? Perché fanno così, è una guerra. Sì, infatti, ma Wind io ce l'ho avuto, qualche annetto fa avevo Wind, mettevo la ricarica, di solito facevo 20 euro di ricarica sempre, tutte le volte, in pochi giorni non c'erano più soldi senza averli consumati. Io telefonati non è che ne faccio tante, per cui qualcuno così ogni tanto in tanto. Poi controllavo il credito e non c'erano soldi. Che succede mai, insomma? Allora ho protestato, ho detto no, guardi che non può essere, va bene, da questo momento sto cambiando il numero. E ho cambiato. per cui 15 non ce l'ho più da qualche annetto, saranno almeno 3 anni più o meno. Per dirci no, perché anche lì anche loro erano ladri, per me sono ladri, quelli che fanno così sono ladri, io non li posso definire in altro modo, per me quelli che fanno così sono ladri e basta, perciò va bene così. Comunque tiriamo avanti, vai. Lo stesso discorso, ultimamente prima di avere Vodafone avevo Poste Mobile, avevo, perché da Windy ero passato a Poste Mobile. Poste Mobile invece pagavo 30 euro ogni 3 mesi, praticamente 10 euro al mese. Poi anche lì hanno cominciato a fare i furbetti, e questi 30 euro me li facevano durare un mese anziché 3 mesi. No, subito, immediatamente ho cambiato e sono passato a Vodafone. Adesso Vodafone vediamo un po' come si comporta. Ce l'avevo già la prima perché ne ho 2 io numeri di telefono e ho visto che stanno comportando bene, ma anche loro se si comportano male cambio in fretta, in 448 cambio e pago 7,90 al mese. Adesso ho la ricarica da 7,90 tutti i mesi e ho tutto, 50 giga che poi non li consumerò mai e poi mai, poi ho telefonate quante ne voglio fare, non c'è problema, e anche il internet. Questo io sto parlando del telefonino, eh. I giga, ripeto, non li consumerò mai, perché? Perché intanto io l'internet soprattutto lo uso interfacciato col telefono di casa, per cui non consumo nemmeno un mezzo giga, non uno, ma nemmeno mezzo ne consumo di giga. Perciò non c'è problema. Quando sono fuori di casa non è che mi metto lì a lavorare su internet, non me ne frega niente, figurati già fra le prendi. Sì Giulio, hai fatto bene, perché bisogna stancarli perché se ne approfittano troppo, ma veramente troppo. Perché loro dicono, vabbè, a te non ti abbiamo fregato, però ci abbiamo, che ne so, 4-5 mila anziani che li freghiamo e non se ne accorgono e possiamo continuare a rubarli i soldi. Così è Giulio, purtroppo c'è una grande malafede di questa grossa società e perseverano perché nessuno si decide veramente cioè sì, il gestore, le cose, quello della privacy, ad esempio, li ha già multati parecchie volte, ma evidentemente non li pagano perché le multe sono pesantissime, possono arrivare anche a un milione di euro. E questi perseverano, vabbè. Oi. Giulio, ma dimmi una cosa, ma tu hai notato che c'è una preparazione enorme oggi, stasera? Sì, ho sentito poc'anzi, ho fatto una piccola spazzolata e ho visto che soprattutto sul canale 33 e anche sul 45 c'era una bella propagazione, ma comunque non erano molto forti le radio, non ci sono entrato, non mi interessava. Sì, beh certo, capita anche l'inverno che capitano le giornate dove ci può essere propagazione, dipende sempre dalla ionosfera, per cui oggi evidentemente era una giornata buona, anche ti do di più, anche i canali più alti era anche più forte di questi canali bassi, diciamo, dall'1 al 20 ad esempio, al 25 anche, dal 30 in su c'era più volume di radio eccetera, di propagazione, avanti Gianfranco. Sì, da me era molto più forte anche nei bassi, tant'è vero che credo sul 6 o sul 7, adesso non me lo ricordo bene, ho parlato con la Grecia in FM, perché erano tutti in FM, e stanno arrivando a paura veramente. Adesso sto guardando e sui canali in alto c'è la stessa attività con dei segnali non differenti. Evidentemente la propagazione è ritornata. Poi dalla Grecia è un po' strano comunque, di norma sempre la Russia. Vabbè, purtroppo succede anche d'inverno i giorni di propagazione, e perché no? Sì, però io ho notato qui a Sassari la gente si è proprio allontanata dal baracchino, no? Non sta entrando più nessuno, qualcuno così, ma proprio raramente. E quando entrano 10 minuti e poi spariscono. E cosa ci vuoi fare? Stamattina, vabbè, ho acceso così per caso e ho sentito una persona, abbiamo fatto due chiacchiere, poi chiaramente era già ora di pranzo e abbiamo dovuto chiudere. Però anche la sera, io poco fa alle 6 ad esempio, io ho acceso che erano le 6, non c'era nessuno qua, assolutamente. Ho acceso anche prima, addirittura dalle 4 anche, e non c'era nessuno. Vede bene che la gente si è proprio quasi definitivamente allontanata dal baracchino. Evidentemente non hanno più la voglia di stare davanti al baracchino. Pazienza, dai. E cosa ci vogliamo fare? Per il resto si sa, la situazione è quella che è e tiriamo avanti ancora così. Purtroppo Giulio, così. Il fatto è che a prescindere da tutto non c'è la passione, capito? Non c'è la passione, quindi i giovani non sanno neanche che esiste, guarda. Le fai vedere un apparecchio che c'hanno le navi, un apparecchio che c'hanno gli aerei, un apparecchio che c'hanno, gli astronauti, per loro sono tutti baracchini, altro non capiscono. Sì, beh certo, purtroppo è così, ma noi alcuni anni fa si era pensato di fare una specie di reclame, di pubblicizzare la banda della 27, diciamo che c'era un mezzo accordo così che poi non è andata avanti perché magari a detta di qualcuno, se poi è vero io questo non lo so, ha messo il bastone fra le ruote e dunque non abbiamo potuto rotolare più avanti. Pazienza, e cosa ci vuoi fare? Purtroppo infatti era nata anche un'associazione e penso che ci sia ancora al computer qualcosa del genere, però è come se non ci fosse perché intanto non è più andata avanti niente. Avevamo intenzione di creare e chiedere il permesso di installare magari non so al centro di Sassari un'antenna tipo che so io bancarella, andare con qualche baracchino e far vedere alla gente, insomma cercare di promuovere la 27 visto che stava morendo, adesso praticamente quasi morta del tutto e non abbiamo avuto nemmeno quella fortuna di poterlo fare perché per quello appunto che ti ho detto, a causa di qualcuno, poi non lo so, qualcuno si è lamentato ma io non so dirti niente di preciso, la verità. Sì, guarda, comunque io ho visto che in quest'ultimo periodo comunque o per un motivo o per l'altro qualcuno in più c'è rispetto a prima proprio andavi dove andavi non c'era nessuno. Io onestamente ce l'ho sempre avuto l'apparecchio, l'ho sempre usato, certo quando non c'è nessuno non puoi parlare col muro, quindi no, neanche fai un cicù. Però c'è da dire sul discorso che stavi facendo tu, che purtroppo, e dico purtroppo, ti devo dare ragione, perché questo qua è uno sport nazionale, non è limitato alla radio, tu adesso guarda tutte le associazioni principali, non ne trovi una qua in Sardegna o anche fuori che non abbiano litigato di brutto anche per futili motivi. Ma sto parlando di associazioni non solo CB o radioamatori, ma anche di altro genere, perché è nello spirito degli italiani essere abbastanza contrari. Ad esempio, ti faccio un esempio per tutti, anche in politica, tutti quanti in coro, i vaccini non ci sono, poi guardare la statistica, i vaccini ci sono, e se non primi siamo i secondi in Europa. Dopo l'Inghilterra credo, se non l'abbiamo pure superato. Poi ci sono tante altre cose, questo non funziona, poi vai a vedere e in realtà funziona. Nelle associazioni fai un'iniziativa e tutti, a posto di fare un passo avanti, fanno un passo indietro. È una cosa tipicamente italiana che ci fa regredire veramente. Tu pensa che tutti quelli che ho sentito stasera hanno tutti in FM, popolazione splendida, eccetera. Gli italiani sono tra i pochi che continuano a usare questo cavolo di AM che crea disturbi, che imbatte di meno, che ha 3.000 pecche. In campo professionale solo gli aerei li utilizzano per motivi particolari e comunque sono molto più chiari. È un disastro questo paese. Siamo, come dice, si dice il sardo, sento gabbi, sento barretti. Sì, no, ma diciamo che è un modo di pensare, soprattutto io adesso mi è fatto venire in mente quando ero più giovane, io ho fatto tanti anni di sport a livello agonistico, anche nazionale. Per cui qui a Sassari devo dire che è mancato sempre l'impegno, è mancato, ma non solamente da parte di chi voleva fare dello sport, ma anche da parte delle società, eccetera. Perché non trovi gente, siccome le società in un certo qual modo hanno bisogno anche di soldi, non trovi gente che finanzia queste società, perché i contributi della regione sono molto ma molto scarsi. Se lo posso garantire, perché io, ripeto, come ti ho detto poc'anzi, ho fatto sport a livello nazionale, oltre che a livello regionale. E le cose sembrava che andassero bene. Spirito e sacrificio ce n'era tanta da parte dei ragazzi, la verità, allora, perlomeno in quel periodo. Oggi no, oggi un po' meno, oggi i giovani non hanno la voglia di sacrificarsi troppo. Alle volte io vado lì allo stadio dei Pini, chiamato così, stadio dei Pini, che poi oggi è stadio Tonino Siddi, perché l'avevano cambiato il nome, l'avevano cambiato, e tu vedi i giovani che vanno ad allenarsi lì, anziché allenarsi tu li vedi sdraiati sul prato dello stadio chiacchierando, soprattutto fra i maschi e le donne, perché ci sono anche le donne, no, che vanno a fare gli allenamenti. Per cui non c'è quell'impegno serio di una volta, non è come quando gareggiavo io, ad esempio, o io e gli altri naturalmente, che andavi lì per allenarti e lo facevi dopo un'intera giornata di lavoro, oltretutto, e dunque eri già stanco dal lavoro, arrivavi lì o in palestra oppure allo stadio e ti allenavi senza nessun problema, con tanta volontà, con tanto sacrificio che si faceva. Invece oggi no, oggi tu vedi anche questi studenti, va bene, studiano tutto quello che vuoi, chi studia, questo è da sottolineare, chi studia, non tutti chiaramente, e invece no, vanno lì a chiacchierare, praticamente vanno a divertirsi, a chiacchierare con le donne, forse a pomiciare anche, magari fra di loro, verbalmente, non lo so, che ne so. La dici, non è più come una volta, manca l'impegno totale, sia da parte dei giovani che fanno lo sport, sia anche da parte delle società. Tant'è vero, tutte le società di Sassari sono tutte sparite. Libertà Sacri, la Libertà Alba, la Società Sportiva Alba, la Polisportiva Sassarese, la Studio et Stadium, i Pompieri, insomma c'erano una marea di società, che oggi non ce n'è più nemmeno una, Giafra, li prendi. Sì, ma Giulio, il motivo è quello lì, perché ci sono tante persone che aprono la bocca anche senza sapere quello che dicono, capito? Prima la lingua e poi il cervello, mentre dovrebbe essere viceversa. E la lingua possibilmente tenersela in bocca e non fuori. Ma così non è per tantissime persone, purtroppo. E guarda, ti racconto una storia. Io io ho il fratello di un collega che conosco che lavora nella guardia costiera. Il fratello, parlando con uno, ha detto, beh, tuo fratello, tu sei nella guardia costiera, eccetera. Un altro mandrone da mantenere, un altro po' lo picchia. E, siccome l'ho sentito anch'io un paio di volte uscendo col mare forza 9-10 a salvare le vite delle persone, questa è la gente che abbiamo, gente che apre la bocca senza sapere cosa fanno gli altri e così se la prendono con tutti, con i vigili del fuoco, e se la prendono con quell'altro, con quell'altro ancora, senza sapere quello che dicono. Poi vai a vedere chi sono. Sono dei qua, per carità. Un po' come è successo anche d'altronde, l'abbiamo visto negli Stati Uniti, quello con le corna, non so, che ha saltato il coso. Anche quelli sono gente che pensa i complotti, siamo vittime di qua, siamo vittime di là. È stato fortunato che non le hanno sparato, che ci ha rimesso le penne invece quella ragazza che stava scavalcando la finestra. Capito, Giulio, come? E noi siamo così, la maggior parte è così, purtroppo. Cosa vuoi fondare un'associazione se il giorno dopo ti dicono che magari hai rubato i soldi oppure non si può fare? Di tutto, sono proprio, guarda, una cosa allucinante. Sì, beh, in effetti è così. Poi oltre, tornando sempre al discorso delle società sportive, eccetera, ci si è messo di mezzo anche l'amministrazione comunale, intendo, perché prima, ripeto, quando io ero giovane, gareggiavo immancabilmente tutte le domeniche, ripeto, nemmeno una ne saltavano, perché c'erano le gare, sempre. Poi hanno incominciato, non possiamo dare più i permessi per svolgere le gare la mattina, la domenica mattina, per la questione del traffico, troppo questo, troppo quell'altro. Se volete organizzare le corse dovrete trovare un circuito dove c'è poco traffico. Alla fin fine questo circuito con poco traffico non è più esistito, anche se poi si organizzavano magari i luoghi meno trafficati, e invece qui alla fin fine non hanno dato più il permesso nemmeno per quel motivo lì. Sicché, come vedi, oltre alle società, alla poca voglia dei giovani di sacrificarsi per lo sport e soprattutto alla poca intelligenza dell'amministrazione comunale, che non danno più la possibilità di fare le corse su strada. Dice, le corse se le volete fare fatele allo stadio dei Pini. No, non è giusto parlare così, perché allo stadio dei Pini la gente non segue molto, vanno solo quelle poche persone, ma veramente quelle pochissime persone, anzi non poche, pochissime persone, a seguire le manifestazioni degli atleti sardi. Mentre invece se vengono da fuori, dal continente, allora magari lo stadio si riempie anche. Ma per quale motivo tu, che appartieni alla commissione comunale, non fai di tutto per fare svolgere le gare la domenica mattina come si faceva una volta? Che tutto il tragitto era invaso di persone, perché se tu vai a farti vedere dalla gente, la gente si ferma, ci sono anche quelli che fanno tifo, ci sono quelli che applaudono, però se tu invece le dici vai allo stadio dei Pini, non ci va nessuno, perlomeno da Sassari, non ci va nessuno. Per andare i sassariesi allo stadio dei Pini devono arrivare i grandi campioni da fuori, dal continente, perché se no lo stadio dei Pini rimane sempre vuoto. Ci vanno quei quattro pellegrini a fare le sue passeggiate, più che altro organizzazioni non se ne fanno più, infatti ne fanno più nei paesi che a Sassari, per dirti, no? Ci vuole impegno da parte di tutti, non è solamente le società o gli atleti, ma soprattutto anche il comune, che non permette a fare delle manifestazioni sportive su strada. E così ho giocato. Purtroppo non è solo così. No, non è solo così, guarda, a me è capitato, tu sai, io sono, mi piace praticare il ciclismo, prima facevo il ciclismo su strada, e quindi quando c'era qualche manifestazione andavo a vederla. Ci è capitato anche di dover fare la scorta come macchina, eccetera. Beh, è vero che alle partenze, agli arrivi c'era moltissima gente. Io ti parlo del Giro di Sardegna, che era nazionale, quindi venivano da fuori, e guarda, da fuori ci guardavano così dicendo, ma quando le facciamo noi, la gente bloccano le strade, fermano tutto, e qua e quella. Qua abbiamo incontrato tanta gente lamentandosi, ma questi rompiscatole che bloccano le strade, qua, là, eccetera. Quindi mettiti anche nei panni di un sindaco che riceve critiche sul giornale, ma la strada d'Alghero era una sola corsia, perché poi non l'hanno neanche bloccata tutta all'epoca, ma c'erano queste macchine che dicevano di rallentare, ma c'era questo, ma non potevo uscire dalla campagna perché me ne frega assai, a me, io dovevo uscire perché stavano arrivando i cicli. Insomma, guarda, se incoci quelli della protezione civile e le chiedi tutte le cose che succedevano durante queste manifestazioni, è comprensibile che a un certo punto uno dice, per ricevere tante lettere di protesta da tizio e da caio, non faccio niente, e mettetevi tutti quanti all'asino. Tieni presente che di lì le società pagavano anche di tasca loro, parecchie società di ciclismo, e l'investimento era veramente grosso. Però trovavi questa gente che se non si fa è meglio, e vabbè. Sì, in effetti è così. Appunto, non ti permettono le istituzioni, noi perlomeno qui a Sassari soprattutto, non ti permettono niente a livello sportivo, non puoi fare niente, niente di niente. Il ciclismo, le manifestazioni di box come facevano una volta, oggi il calcio diciamo che ha mobilitato qualsiasi sport, l'ha distrutto completamente, però sempre a livello di ragazzini, di gente che, tant'è vero, anche la società Torres, la Torres di una volta, quando c'era la squadra come si deve, eccetera, non c'è più, non esiste più. Oggi la Torres, mi sembra che la prima vittoria l'ha avuta questa settimana, o l'ha avuta, ti puoi immaginare, perché ormai non c'è più impegno da parte né della società né dalla parte soprattutto dei ragazzi, perché ripeto, spirito di sacrificio come una volta non se ne fa. Prima si correva per una medaglia, si gareggiava e si giocava per una medaglia di cartone anche. Oggi invece vogliono tutti i soldi, non è possibile poter appunto andare avanti, perché una società creata così non può avere i soldi per pagare gli atleti, no, al massimo quando organizzano le corse mettono dei premi come si faceva una volta, si andava in giro per i negozi di Sassari e si diceva dobbiamo organizzare una gara sportiva così, può dare qualcosa in offerta per dare come premi poi agli atleti? E diciamo che c'era la buona volontà e soprattutto si riusciva a fare delle belle manifestazioni. Invece oggi no, tu vai anche nei negozi, a parte il fatto che non ci va più nessuno a chiedere soldi o premi, magari che cosa sei tu, un negozio di elettrodomestici, magari ti dava un ferrastino, oppure che so io, ti dava una stufetta, oppure un rasoio per la barba, queste cose così, no? E allora si facevano le gare e c'erano questi premi. Invece oggi no, oggi se non ci sono soldi non c'è niente da fare, non ci va nessuno a correre, a gareggiare o a giocare. Io so la gente che gioca in terza categoria, io sto parlando di terza categoria, che prende addirittura 3.000 euro al mese per qua dare 4 calci al pallone e non sanno nemmeno giocare perché fanno pena. Io il calcio lo seguo nei campi minori così, no, quando ci sono, a parte adesso che non ci sto più andando perché c'è il discorso virus, ma prima del virus io andavo immancabilmente tutte le domeniche, immancabilmente andavo un po' per i campi dilettantistici, ma tu vedi che fanno pena.